gente che saluta solo con i guanti. Qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte, buonasera a tutti voi, sono Marco, bentornati ancora sempre anche ai fedelissimi che sono qua da ore su Ciao Como Radio, che ci seguono. Questa sera io sono Marco, forse qualcuno di voi mi ha già sentito, sono qui con Gastone di Allineamenti per esporvi un pezzo che ho scritto qualche anno fa e per presentarvi una canzone che reputo molto interessante dal punto di vista, diciamo così, musicale ma anche testuale, quindi letterario, non solo orchestrale, non solo sinfonico, non solo, ed è L'armata perduta di Re Cambise di Murubutu, che è un rapper noto ai più. La canzone è passata un po' sottotono, però secondo me è una delle migliori, perché esprime pienamente la, diciamo così, la desolazione della guerra, la devastazione della guerra, e diciamo così, come di fronte tutte le nostre armi, il nostro eroismo, il nostro guerriero, di fronte alla forza della natura e all'inconoscibile di ciò che viene chiamato divino, ma che poi è quello che il greco chiamava demoniaco, no? È la stessa cosa, in fondo, che questa natura si rivolge contro la guerra. Immaginate come possa, in fondo, un assalto in Giappone, un assalto militare, un'invasione del Giappone possa essere messa a rischio da un terremoto, da un maremoto, e fare strage di soldati. Quindi c'è una guerra al di fuori della guerra, non solo all'interno della guerra. Bene, la canzone, appunto, adesso ve la mando, è L'armata perduta del Re Cambise. Sceso da tempo sulle sfinge egizie, quando Cambise decise di annettere, prendersi tutte le terre limitrofe. Solo un'ultima tappa resisteva, l'ascesa del figlio di Ciro, un'oasi ricca di date e acqua, là sulla lunga valle del Nilo. Dopo aver superato il Sinai e Sicino, lì piegato ogni stato, dopo aver ucciso il faraone e trucidato il toro sacro, lui Cambise non pagò, con un solo cenno del capo ordinò di radere al suolo e mettere a fuoco il noto luogo dell'oracolo di Amon. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse col suono ogni colpo sul suolo. E fu la brama di un re sadico, avido di potere teocratico, o per vendetta sull'oracolo magico che volle prevederne il baratro. Ma una volta giunto a Tebe, divise le truppe in due gruppi, due schiere, poi spinse la prima verso Nubia, l'altra verso Cirene. Avanzava ignara la carovana umana, frustata dalla lama dell'Afa. In un deserto aperto una nenia berbera suonava lontana. 50.000 tra mercenari e lamiti, greci, fenici, marciavano verso i confini uniti alla stessa armata persiana. Come al centro di una danza, sali in cerchio l'aria calda, giunse il vento sulla landa, li travolse e volse all'alba. E no, lo videro, no, lo dirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo sparì. Una simula cala e poi simila sale su obliquo e ricopre ogni simile. Quando avvertirono il primo soffio da sotto, i soldati non ebbero cura, erano veterani del deserto, esperti, abituati ad affe d'assura. Ma dopo 7 giorni di marcia, fra le secche di sabbia, videro l'oceano bianco notare faccia sull'altura di ogni duna. Conoscevano i rischi delle spire del mare di sabbia fine, le colline che si aprivano creando slavine improvvise fra le file, le lande di rena sottile che inghiottivano vite a decine. L'ordine di proseguire fece fuggire le stesse guide beduine. Giunse dal vuoto al tramonto di fuoco e travolse al suo suono ogni colpo sul suolo. ardeva il mare bianco, solcato da sciami di grani fini, scambiato nell'abbaglio del sole alto come soffio calvo dei ghibli. Ma il cielo si fece viola in un'ora per la sabbia in sospensione, procedendo da ogni roccia rosa l'invasione di nasi e gomme. I primi morti avvolti dalla furia dei forti vortici fra i mali, salti, calci delle bestie, rese foglie liberatesi dai carichi, i soldati caddero esanimi, molti sepolti dai grani bianchi, il silenzio dei corpi sotto le nuove forme ridisegnate dal Kams. Del silenzio che ti incanta, una voce canta stanca, segui il senso della sabbia, giunse lento e scaldo l'aria. E non lo videro, non lo dirono, lui li raggiunse in un soffio, ogni corpo svanì. Ecco, ora passerei la parola a uno mio breve, cosiddetta prosa versatile. Io la chiamo prosa versatile o verso prosaico perché è un'esperienza innovativa, ma nello stesso tempo radicata nella tradizione. Bene, con un quadro di radice, no? De Pisis, per esempio. Va bene, si chiama Risveglio senza mattino. Non avete sentito il sentimento risentito? Non avete rimpianto il pianto con pianto, la nuova fratellanza, i conoscenti inimicati, le belle cose belligeranti? Quanto ancora vi è dell'esservi che c'è? Quanto ancora sta nello stare che ristà? La mia fiacca si esaurisce, il mio esaurimento si infiacchisce, è la vita che muore, la morte che vive, mentre le nature si snaturano, le compostezze si scompongono. Ho del risentimento nel risentirmi, un approccio proclive all'intemperanza, stemperata, intemperante, dedita alle dedizioni, come il catrame che si articola nelle vene a ingrossare il sangue, nel suo defluire indefesso, infisso negli organi argivi, nel ferro infuocato, afferrati dalle fiamme, le labbra minuti, minuti slabbrati, le pieghe impiegate. Tutto questo possibile non è mai probabile, quanto vi è di sicuro non è mai ancora certo, e quel che è certo, certo solo per alcuna certezza, alcuna certa certezza. Ardirò di ardire, ardente e sconsolato, nei consigli diurni, dove i giorni si aggiornano, dove le menadi braccate e le baccanti menate spezzano le orfiche carni, assaggiando il dolce veleno della lira che spira. Mi raccolgo i raccoglimenti in raccolte di racconti, vedo guardare la vista, vedendola invisa, è invisibile, è invisibilio, è inaudita agli auditori. Rimane ancora ancorata la speranza, che semina deficienze, che decima deficienze. Oggi annegherò nelle negazioni, spendendo plausi plausibili, con i censori incensurati, con le polvere asciutte e la scoppia che mi accoppa. Ieri è già domani, oggi è soltanto oggi. Non vedo trascendere i riversi. Riverirò le trascendenze e trascenderò le riverenze. Bacco all'addiaccio, duccio al bacio. Ecco, questo è un piccolo assaggio di quello che poi sto cercando di fare, cioè di impastare, così come la pasta è un impasto, così le figure retoriche, la retorica e la poesia si impastano insieme. Ora, naturalmente, non c'è sentimento senza retorica, non c'è retorica senza sentimento, questo è anche retorica, questo è anche sentimento. Ecco, quello che vi dico è di sperimentare senza, con le parole, nella vostra alcova, nella vostra cova intendo, nel vostro auditorio, nel vostro uditorio, nel vostro intimo. Quindi intimo non siete soltanto voi, il vostro intimo è fatto di persone, di familiari, di nemici, di amici, di conoscenti, di ignoti, è fatto di macchine, è fatto di, quindi sperimentare la poesia nella vita, perché la vita vissuta senza poesia è come la poesia senza vita, no? Non è una cosa. Vabbè, colgo questa occasione per salutare tutti gli amici, per ringraziarvi per il gentile ascolto. Io sono Marco, arrivederci. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.